con mia figliola, siamo andati, cioè, Bene. siamo, a mezzo tanta gente non siamo riusciti ad arrivare neanche al campo. Quando diciamo, la cosa è partita, praticamente noi stavamo a metà corteo, il corteo arrivava e ancora non era partito dall'altra parte. Sono state 300.000 persone. È stato molto, molto bello, molto commovente. Certo, qui poi va già in seconda pagina o in terza pagina perché non è proprio una cosa di cui hanno voglia di parlare, però Vabbè, ma diciamo da non Amsterdam si possono era ignorare commovente. 200-300 mila persone. Non si ignorano, ma comunque sai, tre interviste a persone prese prima della manifestazione con nessuno dietro, il fatto della manifestazione in seconda pagina. Se ne è parlato solo ieri praticamente, quindi insomma c'è ancora la voglia di baccagliare. Comunque, noi ci siamo andati, non si poteva non andarci, insomma, Certo. siamo andati. Ho visto la vostra azione, no? Ho molto approvato. Forse ti racconta qualcosina brevemente, no? Anche di questa azione, o vogliamo entrare proprio nella radio? Cosa facciamo? Andiamo in radio così Andiamo in radio, dai. registriamo. Sì. Ok, allora io Io sono adesso. sempre più al mio agio quando mi fate domande perché non sono una che parla tanto e che piace tanto parlare, quindi se fate domande sono felice. Benissimo, sì. Cominciamo dalle basi, cominciamo proprio da chiedere chi sei, così, eccetera, e poi. Casomai, insomma, poi casomai si taglia qualche cosa via, non ti preoccupare. Andiamo in diretta, però, perché è più divertente. E come ti trovi, Marie? Ok, bene, bene. Via. Siamo in diretta Radio Antidoto con Marie Pierre. Buongiorno. Ciao Marie Pierre, ciao Federico. Ciao, io sono da remoto, ma penso lo sentite la mia voce. Da Amsterdam, vero? Sì, sono da Amsterdam, oggi giornata grigia e buietta, però insomma L'opposto tutto che è qui bene, da noi. Sole luminosa e stasera luna piena. Quindi è una giornata molto particolare. Stavamo proprio riflettendo anche su questa cosa con Marie Pierre poco fa. Bene, e cominciamo a fargli qualche domanda per i nostri amici della radio, a Marie Pierre. Dici un po', innanzitutto, chi sei e come sei arrivata? Grazie, beh, innanzitutto ringrazio tantissimo di accogliermi qua nella residenza. E sono arrivata qui che la prima cosa che ho visto è il mare e ho avuto un'intuizione subito che mi sono sentita subito perché vengo dall'Olanda, quindi il Mediterraneo per me è un'esperienza, insomma, così. E quindi arrivando mi sono sentita collegata col mare, con l'acqua e anche con le persone che sono dall'altra parte del mare, che hanno una vita, insomma, adesso con sofferenze e tutto. E questo ha guidato la nostra prima azione, diciamo. Quindi è stato per me molto diretto, ecco, quest'arrivo. Quindi sei arrivato dall'Olanda, ma cominciamo dalla base. Io sono curioso di sapere, siccome so che sei arrivata lentamente. Quanto è durato il viaggio? Cosa ti aspettavi? Cosa hai visto? Sì, hai ragione, perché io sono nell'adesso, quindi adesso voglio parlare proprio di quello che stiamo facendo adesso, ma il viaggio è iniziato in verità Qualche giorno prima, qualche no? Mi giorno hai prima, perché detto. non volevo viaggiare con l'aereo per arrivare qua. E quindi dall'Olanda mi sono fatta tutto un viaggio in treno, in Flixbus, prima fino a Parigi e poi fino a Marsiglia, dove ho passato qualche giorno da una mia amica. E poi col treno e il Flixbus anche sono venuta fino ad Alessio, a Lassio. E questo era anche per distaccarmi un po' della mia realtà in Olanda perché no, c'è anche una vita frenetica, delle abitudini e tutto. E volevo proprio qui in questa residenza prendere il tempo, lavorare anche con la lentezza. E quindi mi piaceva concretamente viverlo e attuarlo. Questo è stato il mio viaggio. Molto bello, racconta un attimo agli amici radioisti, quelli in radio, cosa fai tu in genere in Olanda e così poi dopo arriviamo a cosa hai fatto lì e possiamo parlare dell'adesso come ci chiede. Sì, certo. E quindi io sono un'artista e lavoro sia col movimento, sia con le arti visive, con la musica. Faccio euritmia, che è questa forma di movimento, questa forma di danza che incarna nel corpo i gesti del linguaggio. E faccio questo in un gruppo di palcoscenico in Olanda, questa è la mia attività, diciamo, principale. E poi ho i miei progetti indipendenti con altri artisti e diciamo che da quest'anno mi sto mettendo un po' di più nelle arti visive, quindi con disegni principalmente e pittura. Splendido, ma allora arriviamo, io devo fare un piccolo preambolo. Quando ti abbiamo incontrato online e prima avevamo letto il tuo proposal per la residenza, eccetera, rimanendone abbastanza entusiasti, devo dire, io non avevo realizzato di conoscerti. Quindi credo di aver fatto delle figuracce terribili, perché anche vedendoti non avevo realizzato che ci eravamo già conosciuti a Venezia una volta. E che sono venuto anche a vedere le tue performance, rimanendone tra l'altro strabiliato, mi sono piaciuto tantissimo. E quindi proprio o sto invecchiando o devo rifare gli occhiali. Comunque, sono felicissimo che tu ti sia trovata bene lì con Cristina. E adesso a questo punto raccontiamo agli amici in radio, dopo che io ho fatto ammenda e mi sono fustigato, fai conto di sentirle crostate. Raccontiamo un pochettino la vostra primazione. Allora, visto il mare, cosa è successo? Cristina, vuoi dire tu anche un Sì, po'? faccio solo una Posso piccola chiedere? premessa, sì, una premessa per dire che appunto arrivata qui abbiamo trascorso insieme un paio di giornate di esplorazione. Volevamo appunto camminare un po' su e giù per la Liguria per scoprire quali sono i luoghi che hanno ispirato noi innanzitutto, no? La prima cosa che volevo condividere con Marie era questa. E quindi con la macchinina siamo partiti da casa e ci siamo spinti fino a Finale Ligure, dove abbiamo incontrato l'area Piaggio abbandonata, molto ampia sul mare, le cave che sono già state oggetto di lavoro con l'ENCA 2 anni fa. E ci siamo anche prese un pochino di tempo per mangiare un gelato tra i vicoli di Finalborgo e poi man mano ci siamo avvicinati verso Alassio passando per Pietra Ligure e quindi il cantiere navale che ci ha ispirato moltissimo e sul quale ci siamo già soffermati. Ho condiviso con Marie il film che potrà appunto visionare. E poi anche Ranzi è rimasta colpita anche dal fatto dello spazio, no? Di proprietà del comune abbandonato. E Marie, eri colpita dalla bellezza di questo posto che è così chiuso. E la cosa che ci ha sorpreso è il fatto appunto che questi spazi di proprietà pubblica non vengano comunque messi a disposizione dei cittadini. Poi vabbè, abbiamo esplorato anche un po' il vigneto, il nostro orto, abbiamo trovato dei punti di contatto con Marie per quel che riguarda la coltivazione delle verdure, degli ortaggi, la passione per il vino rosso abbiamo in comune. Buonissimo. E poi ci siamo man mano riavvicinati verso Lazio e abbiamo percorso la via Iulia Augusta. Tra l'altro siamo state molto fortunate perché era venerdì, era il giorno dello sciopero generale. Noi al mattino abbiamo tentato di andare alla fermata dell'autobus per portarci ad Albenga in modo da fare tutta la Iulia Augusta da Albenga fino a casa. E dopo pochi minuti è passato un autobus che ci ha portato subito. Quindi vuol dire che veramente dovevamo andare quel giorno e con quella modalità, no? L'autobus del Crumiro ha funzionato. Non tutti i Crumiri vengono per nuocere, no? Ecco, ok. E fin tanto che è stata una bellissima passeggiata. Sì. Il tempo era variabile, per cui abbiamo avuto sole, caldo, vento, nuvole, nuvoloni. E un po' in quella giornata... ha racchiuso un po' tutti i meteo dell'autunno qui da noi, no? Che anche poco fa dicevamo che cambia in modo repentino ed è anche il bello di questo mese di ottobre, che insomma per me è il mese più bello dell'anno per tutta una serie di motivi, però mi sembra che anche Marila lo stia apprezzando questo periodo. Fin tanto che siamo arrivati sulla spiaggia e siamo rientrati a casa, e adesso comincia a essere piacevole, no? Camminare sulla spiaggia, si sta liberando da tutte le attrezzature. Ci sono ancora molte persone, ma non moltissime, per cui è stato piacevole rientrare così. Sì, la spiaggia di Alassio torna un pochettino proprietà o condivisa con il mare e con gli abitanti, no? Una linea di confine condivisa invece che essere, diciamo, un posto di sfruttamento del turista. Esatto. Quindi sicuramente è un momento molto particolare dell'anno. Poi, almeno nella mia esperienza, le luci che cambiano con il mare sono straordinarie, anche se veniamo da paese dove la luce è paradossalmente famosissima, l'Olanda, l'aria e luce del Mediterraneo è un'altra cosa decisamente interessante. E ci siamo lasciate per ultime poi l'esplorazione del resort La Puerta del Sol qui sulle colline di Alassio. Sì. E qui vorrei che intervenisse Marie. Ho visto anche le palme. Questo mi ha colpito anche tanto. Sì, perché lì c'è traccia ancora di qualche tronco di palma morto a causa di quella strage che ha fatto il Punteruolo Rosso negli anni indietro, insomma. Sì, una decina di anni fa. Sì, sì, sì. Sì, ha avuto il suo colmo, diciamo, con il tardo berlusconismo, con il neofascismo italico. Il Punteruolo Rosso ha distrutto tutti i simboli del colonialismo, che sono fondamentalmente le palme, che andarono molto di moda negli anni, diciamo, all'inizio del secolo, con l'avventura libica e a seguire, insomma. Quindi io l'ho sempre vista come una nemesi della storia, no? L'arrivo del Punteruolo Rosso. Il problema è che le hanno già ripiantate tutte, ma comunque vabbè. Vediamo. No, beh, lì, per le palme. Lì alla Puerta del Sol, il fatto che oltre allo spazio, all'hotel abbandonato e tutto rotto, ci siano anche queste palme, comunque è il paesaggio, sia da un punto di vista della natura che del costruito, è in rovina. E questo è il tema che ha colpito, insomma, ci ha colpito. Senti Maria, una domanda un po' così. Chiaramente tu tradurrai, diciamo, le sensazioni, gli input del luogo, come secondo la tua arte, ma così, da un punto di vista più della chiacchiera, Cos'è che ti è rimasto, diciamo, che già ci puoi anticipare degli spazi che hai visto? Cosa ti ci immagini dentro? Sì, ci sono tante cose. Adesso devo mettere insieme i pensieri perché è incredibile arrivare in un posto che non conosci e avere tutte queste impressioni, no? Però una Sì, cosa che mi infatti. ha colpito tantissimo, e non essendo dal luogo, arrivi comunque così, una cosa che mi ha colpito tantissimo, sono le finestre. E le tapparelle chiuse proprio di palazzi interi. Questa mi ha fatto anche avere un'emozione quasi un po' di tristezza, no? E poi subito dopo anche un pensiero così sì, delle persone che hanno difficoltà a trovare case, e poi ci sono tutte queste case, altre case che vengono costruite che ci sono gru, eccetera, da tutte le parti. Altieri. Quindi questo mi ha molto colpito e non so in quale direzione. Adesso ho un po' di idee, però non ha senso tanto dire adesso perché vorrei No, fare. certo. Ma Ma certo. queste tapparelle e anche la forma delle tapparelle, si chiamano così tapparelle. Sì, giusta, è Sì. quello proprio standard così di plastica, penso, con i piccoli Di buchi. posti orizzontali con Che hanno i questi, tagli. esatto, una specie di cosa rigida anche e austera. Allora che la finestra, io sono qui nella casa, che ci sono queste finestre, no? Quindi il gesto anche di aprire la finestra la mattina e di avere questa apertura, no? Da vita al luogo e vederle tutte chiuse, sì, è stato l'impatto più grande. E poi anche Sì, poi un'altra chiusa cosa. come una tagliola, no? È Sì, come. e poi un'altra cosa sono le rovine. Questo perché a Marsiglia ho visto una mostra di Alicieri, che è un artista che ha lavorato tanto sulle rovine e sull'archeologia, e ha avuto questa frase che mi risuona qua, e lui diceva che dal momento in cui lavori nelle rovine, cioè prendi le rovine e le restauri, togli alle rovine il loro statuto di rovine, no? Una cosa del genere. E quindi mi è piaciuto così le cose che la natura riprende sul costruito, che anche sento che ce n'è tanto bisogno in qualche modo, di luoghi selvaggi dove la natura riprende, come al resort, per esempio, che è bellissimo, sono entrata dentro, mi è piaciuto tantissimo vedere. E poi ci sono pezzi di statue che sono giù e quasi, cioè, sai, non c'è niente da fare, quindi lì mi dico anche va bene, è così, non c'è niente da intervenire sopra, è già lo stato di rovina basta a se stesso, no? E mi parlava questo. E per questo penso anche mi parlano tanto le necropoli, perché hanno questa cosa che sono così inserite nel paesaggio, no? Sono estremamente curioso, sono contento. Mi sembra di capire che questa residenza sia di ispirazione, comunque. Sì, lo è, scusa, io parto un po' in tutte le direzioni poi perché anche non, sai, all'inizio anche non ho qualcosa di chiuso. No, ma va Quindi. benissimo. È bello che ci sia. Sento entusiasmo e friccichio è sempre positivo, comunque dovunque vada. Anche se dovesse venirti un'idea in questa base tra 3 anni, andrebbe benissimo, per noi lo stesso, insomma, lo scambio c'è ed è libero, come dire. Sì, certo, capisco, sì. E una cosa che a me colpisce sempre, come dicevi tu, del panorama, è che c'è questa diffidenza tra l'alto e il basso, tra la montagna e il mare. C'è questa popolazione che si schiaccia riempendo ogni buco sull'orizzontale attorno alle vie di comunicazione e molto meno connessione con l'alto, con la montagna. È interessante che la via Augusta, poi essendo un'antica via, diciamo, è un po' sconosciuta, ma è un altro rispetto ad Alassio, no? E unisce anche bene le due zone, quindi sono curioso di vederti lavorare lì. Grazie, sì, c'è anche qualcosa tra l'orizzontale e la verticale di molto presente qua. Oh. Parallelo, finestre, c'è, sì, ci sono molte cose molto architettoniche che voglio esplorare, sì, voglio esplorare, voglio vedere. L'orizzontale, parlando di orizzontale, mi hai fatto tornare alla mente la piana di Albenga che abbiamo visto tanti, in questo periodo tanti teli neri. Qualcuno è già coperto da qualche vasetto, ma abbiamo anche tanta, tanta superficie libera, però coperta da questi teli neri che utilizzano appunto gli agricoltori Sì, anche per la questo mi ha loro colpito attività, no? Quindi molto. mi hai Sì, parlato anche dell'orizzonte. questa agricoltura che non tocca la terra è anche abbastanza particolare. Spiritualmente, diciamo, spiritualmente o come sensibilità simbolica è molto forte, no? Cioè, non toccare la terra, non aprire verso il fuori, ma rimanere con le Chiudere, sì. tapparelle a chiudere. E sai cosa Ci mi ha sono colpito delle. anche tantissimo questa cosa nelle scelte dei posti che mi ha fatto visitare Cristina, che c'è sempre questo enorme contrasto. Quindi come dici tu, questa non permeabilità con il terreno e così all'opposto il giardino di Cristina con le vigne, con la vita che senti, no? I profumi e queste terrazze che sono anche state fatte anticamente e comunque con una Mantenute. co mantenute, una connessione, una cura, e sì, questo tema della connessione che è connesso o disconnesso dal suolo. C'è una disconnessione che secondo me deriva anche da questo doppio crash economico. Prima l'industria, negli anni, alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, eccetera, anche industria pesante, no? E poi e su questo, diciamo, il turismo, che è un altro tipo di sfruttamento del territorio, Altrettanto che pesante comunque comunque. rompe con la connessione con il terreno proprio, con millenaria tradizione di muretti fatti con sassi staccati con fatica, no? Alla montagna. Sono molto curioso di vedere cosa farei, sono contento che ti trovi bene. E Grazie. anche con Cristina ne parlavamo, siamo molto contenti di poter essere mutualmente d'aiuto. Io dovrei riuscire a venire giù il 25, spero di trovarti ancora, non so, perché prima non riesco. No, non ci E sono più. no, parte il 22. Sì. 22. 22, vedi, purtroppo non riesco a venire prima stavolta, c'è miseria. E Vabbè, comunque in ogni mi caso spiace. ci vedremo, ci sentiremo ancora, creeremo delle occasioni per fare altre Sì, chiacchiere, no? ti Ti comunichiamo. sì, e Ti poi teniamo a questo punto vicino. verrò a vedere qualche altra performance tua e di Fuad, che so ancora nel cuore quella che vidi un po' di tempo fa al Rodbioscope. Veramente, sì, ti ho toccato, Sì, bello. ma era bellissimo vedermi suonare. Io quella volta mi presi il Covid, figurate. Quindi me lo ricordo per due motivi, però fu una bellissima performance e sarò felice di venirvi a vedere o venirti a vedere quando fai qualcosa da queste parti, poi ne Da riparleremo. queste Io parti, spero ma che. anche qui in Italia, un sacco di cose in Sì. programma, quindi insomma ci Va sarà. benissimissimo, ne riparleremo comunque. Io vi lascio magari a chiudere il programma per la radio. C'ho da preparare la cena, Sì, sennò la famiglia mi noi uccide. anche comunque dobbiamo dedicarci alla cena perché abbiamo un ospite questa sera e Ah. quindi insomma, Beh, risotto alla zucca, chiudiamo la sì. trasmissione, salutiamo gli Sì, amici della radio. ci Grazie Cristina, rivedremo, dovevo no, chiamarti. magari per un collegamento ancora con Marie, perché ci terrei che facesse un intervento in radio direttamente per parlare di questa prima azione Sì, e quindi condividerla benissimo. con i ragazzi Magari della facciamo un radio. attimo di propaganda Sì, così abbiamo esatto, più esattamente. Ci spettatori. organizziamo, sarà una chiacchiera di nuovo di 15-20 minuti, non di più, però è Benissimo. un'azione molto potente e toccante, per cui ci tengo, ecco. Va bene? Benissimo, mi Grazie. ascolterò. Grazie a tutti, grazie Fede, a presto, buona Bacione. serata. Buona Ciao. serata, ciao. Ciao, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.